Marisa, Babu, non puoi ponere, non vai, non vai. Tu hai la chance. Devi dire che mo già mo che mi canto spiabu. Tu gana fare un po', fare un po'. Ma ancora ci sta faltando un cassa di monta fazia. Pa' un po' di più si mai po', si mai po'. Oggi a mi sta risposto. Fasi tu che chi vuole. Junto.